mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno. Grazie come sempre per aver scaricato appunto questo podcast. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi raccomando di iscrivervi per avere gli aggiornamenti costanti, anche di scrivermi per dirmi che cosa ne pensate, tanto della trasmissione quanto del podcast, effettogiorno@radio24.it e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dove stiamo anche chiedendo in queste ore, in queste settimane, stiamo pensando di dare una rinfrescata, per così dire, alla trasmissione, e accettiamo anche proposte, idee, o quantomeno, insomma, le valutiamo. La giornata di oggi ci racconta innanzitutto del giorno dopo quello che è successo a Roma con le violenze dei tifosi del Feyenoord e tutte le questioni che riguardano l'ordine pubblico nella città. Il sindaco Marino che si scaglia contro il prefetto e il questore, qualcuno li difende, abbiamo sentito un criminologo esperto di pubblica sicurezza che invece dice, insomma, signori, non è colpa della polizia, più di così probabilmente non si poteva fare. Un'opinione interessante anche perché è diversa da quelle che abbiamo sentito nelle ultime ore. Sempre per rimanere in tema di cronaca, ci occuperemo del caso di Iara, il Massimo Giuseppe Bossetti, che è il sospettato numero uno, quello che si ritiene che sia l'assassino, ha presentato oggi una nuova istanza di scarcerazione. Ci sono una serie di contestazioni interessanti che ha fatto l'avvocato di Bossetti, contestazioni che abbiamo raccolto. Ci occuperemo molto di economia. Oggi è la giornata del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare, che varerà i decreti sulla riforma del mercato del lavoro, decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro, del cosiddetto Jobs Act, e sentiremo che cosa contengono esattamente. A proposito di lavoro, è intervenuto oggi anche il Papa per parlare di lavoro nero. Ha detto che il lavoro nero è un peccato gravissimo e su questo sentiremo un servizio. Parleremo anche di pensioni dei pubblici dipendenti, perché ieri il ministro Madia ha firmato la circolare per il pensionamento obbligatorio per chi ha raggiunto l'età, che però non riguarda per esempio i professori universitari, non riguarda i primari, non riguarda i magistrati, e su questo fronte c'è il sindacato, in particolare la CISL, li abbiamo intervistati, che si fa sentire e dice così non va bene. Sempre in tema di economia ci sono i dati positivi su fatturato e industria italiane che danno un buon segnale, mentre l'Europa è ancora in trattative con la Grecia per trovare una soluzione. Dall'estero c'è la cronaca dalla Libia, ci sono stati 3 attentati questa mattina in una cittadina dell'est, e poi infine parleremo di scuola perché sta arrivando un'iniziativa interessante in contemporanea al decreto che verrà varato dal governo, alla riforma che verrà varata dal governo. Iniziamo dalla cronaca del dopo assalto dei tifosi del Feyenoord. Qualche giornale oggi titolava, la Gazzetta dello Sport e il Messaggero, i barbari. Il giorno dopo il sindaco Marino è andato tra l'altro a vedere che cosa è successo in Piazza di Spagna. La nostra Alessandra Schepisi ha seguito la sua mattinata, ascoltiamo. Tra poco il sindaco Marino rilascerà alcune dichiarazioni alla stampa. Il sindaco questa mattina ha compiuto un sopralluogo in Piazza di Spagna, nel pomeriggio incontrerà il ministro dell'Interno Alfano per capire che cosa non ha funzionato nel dispositivo di sicurezza. Marino continua a puntare il dito contro questura e prefetture, chiede nello stesso tempo risarcimenti al club olandese, il danno alla barcaccia, alla fontana del Bernini, presa ieri di mira dagli hooligans olandesi, non è gravissimo, ha detto Marino, ma l'offesa rimane. Marino ha anche detto che molte istituzioni e banche hanno già offerto una disponibilità economica per il restauro, mentre la Confcommercio stima 3 milioni di danni a causa della chiusura forzata dei negozi. I tecnici, tornando alla barcaccia, i tecnici della soprintendenza sono al lavoro da questa mattina, i danni non sono stati ancora quantificati ma sarebbero irreparabili secondo la soprintendenza. Ma sentiamo allora qual è la situazione dall'assessore capitolino Giovanna Marinelli, che proprio questa mattina ha compiuto un sopralluogo a Piazza di Spagna. La situazione è che c'è una scheggiatura diffusa sul candelabro centrale, ci sono i restauratori lì che stanno rilevando i danni con maggiore puntualità, come potete immaginare, però al momento lo stato è questa scheggiatura diffusa. E i danni si possono quantificare? No, ancora no, ci stanno lavorando, proprio li ho lasciati lì che stavano facendo questo, ci vuole un attimo di tempo perché devono evidentemente esaminarla tutta e non è proprio piccolissima. Comunque la barcaccia adesso è stata svuotata. Sì, è stata svuotata anche perché essendo piena di bottiglie e di vetri era anche complicato vedere quello che era successo. Quindi prima hanno tolto tutta la bottiglia di plastica e quant'altro e hanno asciugato l'acqua e stanno lavorando per vedere come stanno le cose. Ricordiamo che era stata appena restaurata? Era stata appena restaurata con un costo di 200.000 euro, l'avevamo restituita alla città i primi di gennaio. Ricordiamoci anche che questa è nata nella mente di Bernini come una fontana per far bere i romani, perché è una delle pochissime fontane della città che è alimentata da acqua potabile. Critica all'ordine pubblico a Roma, dunque ci sono due posizioni distinte su questo fronte. Quella prevalente è che sia la questura che la prefettura non abbiano gestito bene tutto questo. Il riassunto e l'analisi e il commento di Daniele Biacchessi. Non è la prima volta che il centro di Roma diventa oggetto di vandalismi per manifestazioni organizzate oppure per violenze come quelle che hanno visto protagonisti ieri gli hooligans olandesi del Feyenoord. Già nell'ottobre dello scorso anno a Palazzo Chigi restavano molti dubbi sulla gestione della piazza di Roma da parte delle forze dell'ordine contro i lavoratori della AST. E la relazione del ministro dell'interno Angelino Alfano al Parlamento sembrava non aver convinto allora il premier Matteo Renzi. Se poi dovessimo tornare indietro nel tempo, da parte dei responsabili dell'ordine pubblico non fu eccellente il lavoro di contenimento dei Black Bloc a Roma il 15 ottobre del 2011, quando una manifestazione degli indignados degenerò in parecchie ore di guerriglia urbana. E non si può dire certamente esemplare il livello di prevenzione utilizzato dal prefetto e dal questore di Roma per arginare prevedibili azioni dei tifosi olandesi che per ore, ieri pomeriggio, sono rimasti liberi di assaltare Roma e di distruggere ogni cosa, compreso un pezzo della barcaccia. Ha dunque ragione il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Se è vero che, come ha detto lui stesso, per prefetto e questore era tutto a posto, allora si potrebbe parlare, nella migliore delle ipotesi, di una sottovalutazione di ciò che gruppi organizzati e violenti, già protagonisti di vicende analoghe in altre capitali europee, avrebbero potuto provocare nel centro di Roma. Si tratterebbe dunque di un atteggiamento che non può essere accettato da chi ha il dovere istituzionale di prevenire e reprimere con la forza ogni sovvertimento dell'ordine pubblico. Del resto, la partita con gli olandesi era ad alto rischio, il Viminale lo sapeva da tempo. Tutti erano a conoscenza che i tifosi del Feyenoord erano tra i più violenti e forse qualcuno oggi l'ammette, il dispositivo previsto da questura e prefettura è stato preso in contropiede dal numero dei tifosi avversari giunti all'ultimo momento nella capitale. Diversa è l'opinione di Francesco Carrer. Francesco Carrer è un criminologo, consulente del Consiglio d'Europa, consulente anche di una serie di forze di polizia e questo va detto, sostiene gli errori non è che siano stati così tanti e così gravi. Si debba ripartire dal discorso che non è una giaculatoria ma un dato di fatto che l'ordine pubblico è uno degli aspetti più difficili del lavoro della polizia, punto e basta. Quindi ogni volta bisogna partire già da quel livello lì. È vero anche Carrer, come ci segnalava Daniele Biacchessi nel suo servizio che abbiamo sentito poco fa, che a Roma siamo in presenza di una quindicina di episodi solamente nell'ultimo anno che hanno fatto molto discutere, soprattutto per la gestione da parte del prefetto Pecoraro e in parte anche del questore. Il questore credo che sia anche cambiato, quindi a questo punto si dovrebbe ipotizzare un'incapacità professionale globale, cosa di cui io mi rifiuto di pensare. Un discorso che si deve fare è che Roma è forse la città più ricca e più delicata del mondo. Quindi quando in passato, a proposito di manifestazioni molto più corrette, quali quelle di organizzazioni sindacali, si ipotizzava una delocalizzazione, credo che non fosse un'idea molto peregrina. Ecco. Quindi immaginiamoci una situazione di questo genere, in una realtà come quella del calcio, che è già quello che è, con una squadra come quella del Feyenoord, che è già stata ripetutamente penalizzata. Io credo che sia mancata forse una collaborazione a livello europeo, ma da parte soprattutto del calcio, cioè chiediamoci se la UEFA non avrebbe dovuto continuare a impedire determinate transumanze che portano danni. Sì, però mi scusi, qua si parla di circa 500 tifosi, tra i 300 e i 500, non è chiaro, che sono arrivati senza biglietto, con macchine private, in un'area Schengen, e quindi esatto. prendono la macchina, passano e arrivano e sono dei liberi cittadini che fanno come gli pare, e di una polizia italiana che a quanto pare dagli olandesi è stata avvisata, cioè gli è stato detto occhio che arrivano questi. Non c'è un modo per limitare, per bloccare tutto questo nel momento nel quale arrivano in Italia, magari anche una gestione diversa? No, si è riusciti a suo tempo a bloccare centinaia e centinaia di black bloc che convergevano su Genova e l'Acero, essendosi la situazione molto, direi, ancora ulteriormente rammollita o forse fisiologicizzata, per usare un termine più positivo, bisognerebbe fare dei controlli che, se lei passa una frontiera, sa benissimo che non ci sono. In questo caso, per la sempre maggiore mancanza di personale, perché poi si batte sempre lì. Quindi lei dice che ci sono anche questi elementi, non c'è un problema di organizzazione da quel che le è dato di vedere in questo momento? Non mi sento in grado di rispondere data la specificità della domanda, ecco. Un altro discorso che credo che si debba comunque sempre fare è che per fermare un qualunque esagitato, fosse anche lei o Dio che andiamo a gridare in piazza, ci vogliono tre poliziotti, ma lì pronti nella zona specifica, ecco. Quindi questo è un dato di fatto che in molti casi spiega tanti altri comportamenti, quelli che possono essere contro determinati gruppi di immigrati irregolari, di venditori, cioè sono situazioni che l'incrocio fra le norme giurisprudenziali e le necessità operative si fermano in partenza per la mancanza di personale. Carrera, un'ultima domanda, e che riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie o delle tecnologie in genere. Allora, cosa succede? Siamo in un paese che è in grado di espellere delle persone, magari degli immigrati di seconda generazione, solamente perché apparentemente tendono lievemente, o si suppone che tendano, verso il terrorismo islamico sui social network. Ora, e questi tifosi del Feyenoord si sono organizzati anche tramite Twitter e i social network. È possibile che nessuno monitorasse una cosa di questo genere? Adesso l'altra domanda molto specifica: è possibile che li monitorassero e che non abbiano trovato poi le contromisure? È possibile che 500 persone, ammesso che poi fossero 300, si telefonassero uno con l'altro e quindi uscissero dai network? Io, l'unica cosa che ho letto è stata la presa di posizione della squadra, che anche questo le dà un'idea del quale sia il mondo del calcio, ecco. Cioè, invece di vergognarsi per i suoi 300 presupposti supporter, si hanno attaccato alla polizia, che ormai abbiamo visto che è diventato uno sport non solo nazionale ma internazionale. Grazie. E anche questo non aiuta evidentemente le modalità di intervento quando devono essere messe in atto. La vicenda di ieri a Gambirasio, e restiamo quindi sulla cronaca, con la presentazione questa mattina dell'istanza di scarcerazione per Massimo Giuseppe Bossetti, una nuova istanza di scarcerazione. Il suo avvocato Claudio Salvagni è intervenuto a Effetto Giorno, gli abbiamo chiesto su che cosa si basa tutto questo, ci ha dato anche degli elementi interessanti, soprattutto per la famosa vicenda uscita su tutti i giornali delle sue presunte ricerche di tredicenni su internet. Dice Salvagni: non è proprio così. Sentiamo. Il primo elemento più importante importante è che contestiamo il fatto che non vi sia stata una risposta scientifica al dubbio che noi abbiamo sollevato, ovvero l'incompatibilità tra le risultanze dell'accertamento del DNA nucleare da quello mitocondriale. Questo elemento è stato tranquillamente bypassato dal giudice senza fornire una spiegazione a nostro giudizio valida, perché riteniamo che sia un elemento insormontabile in questa inchiesta. Senta, avvocato, da quel che ho letto, voi contestate anche le risultanze della perizia informatica, secondo la quale, queste sono le indiscrezioni che poi sono filtrate dall'accusa, secondo la quale Bossetti avrebbe ricercato tredicenne rossa, sesso sul suo computer? Certo, noi lo contestiamo recisamente questa, perché è stato veramente un basso tentativo di infangare ulteriormente questa persona. Non ci sono ricerche di quel tipo nel computer di Bossetti? Allora, non c'è nessuna navigazione su siti pedopornografici, non c'è nessuna detenzione di materiale pedopornografico, ci sono delle stringhe di ricerca che è evidente che sono state create dalle macchine, perché nessuno su Google scrive tredicenne-rosse-per-sesso, è una sola ricerca peraltro. In che senso create dalle macchine, mi scusi Salve? Io non sono un esperto informatico, quindi col beneficio del dubbio vi comunico questa cosa. Sono dei pop-up, sostanzialmente quando uno va in un sito a contenuto anche pornografico, ma diciamo così lecito, e quindi io non commento queste cose perché se sono lecite non fanno parte della, non le devo commentare. Devo però prendere atto che quando si va in questi siti ci sono delle si autogenerano delle ricerche fatte appunto per invogliare chi fa la navigazione a entrare in determinati siti. Quindi è sospetto che ci sia la ricerca e non ci sia la navigazione. È sospetta oltretutto questo genere di ricerca fatta in questo modo, che è evidente fatta da una macchina, perché io non conosco nessuno, non so, lei forse non lo sa, so, mi dica. Avete presentato delle evidenze, una controperizia vostra su questo? Abbiamo presentato una controperizia fatta dai nostri consulenti, sia per quanto riguarda la parte genetica che per quanto riguarda la parte informatica. Senta, invece quest'ultima prima indiscrezione, poi conferma da parte del RIS dei Carabinieri del ritrovamento sui pantaloni della ragazzina tracce dei sedili del furgone del suo assistito? Guarda, io penso che anche questo sia un ulteriore tentativo di distogliere l'attenzione dal focus, ovvero la mancanza di risposte scientifiche sul DNA. Relativamente ai chiamiamoli peli di tessuto, mi consenta questa espressione, o questi peli di tessuto hanno a loro volta un DNA e allora si può confrontare con quelli del sedile dell'autocarro di Bossetti e quindi vi è una univocità, oppure secondo me possono solo identificare un grande genus, cioè questo tessuto è stato utilizzato indubbiamente per costruire sedili per autovetture, per autocarri, per autobus, per treni, è stato utilizzato in tantissime occasioni. Siamo all'economia, iniziando dal mercato del lavoro. Oggi in Consiglio dei Ministri l'approvazione di una serie di decreti, o quantomeno di uno dei decreti che riguardano l'attuazione della riforma del mercato del lavoro, il servizio. Quest'anno il 1 marzo cade di domenica. Difficile che qualche azienda possa assumere in un giorno festivo. Volendo però, saranno in vigore le nuove regole del contratto a tutele crescenti. In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore riceverà un indennizzo economico che sarà ancorato all'anzianità di servizio, fino ad arrivare a un massimo di 24 mensilità. Il ritorno al posto di lavoro sarà possibile solo in caso di licenziamenti nulli, discriminatori e per alcune tipologie disciplinari. Questo nuovo regime dovrebbe applicarsi anche ai licenziamenti collettivi che riguardano le imprese con oltre 15 dipendenti e che intendono licenziare almeno 5 lavoratori nell'arco di 4 mesi. Le commissioni parlamentari però hanno chiesto al governo di escludere i licenziamenti collettivi dalle nuove regole, lasciando il reintegro in caso di violazione dei criteri di scelta. In dirittura d'arrivo anche il NASPI, l'ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, attivo da maggio con una durata massima di 2 anni che scenderanno a 18 mesi dal 2019. Sul riordino dei contratti ci sarà un primo giro di consultazioni. Dovrebbero andare in cantine Cocopro dopo un periodo transitorio che scadrà a gennaio 2016. Resteranno in campo le sole e vere collaborazioni autonome e le partite IVA. Consultazioni anche sul capitolo mansioni e sull'ampliamento della maternità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri il ministro Madia ha firmato la circolare per il pensionamento obbligatorio delle persone che hanno raggiunto l'età giusta e l'anzianità giusta nella pubblica amministrazione, per il pensionamento obbligatorio di queste persone. In linea di massima siamo d'accordo, ci dice Gianni Faverin, che è il segretario funzione pubblica della CISL, che è il sindacato più rappresentativo in questo settore, nel settore della pubblica amministrazione. In linea di massima siamo d'accordo, però c'è qualcosa che stona all'interno di questa circolare. Sentiamo cosa. Siamo sempre stati profondamente d'accordo che chi ha l'età pensionabile vada in pensione anche d'ufficio. Il problema che non pone la Madia è che sarebbe interessante, quando la pubblica amministrazione manda in pensione una persona dopo 42 anni, che gli dia l'occasione di assumere un giovane, fare un vero turnover e 2 o 3 anni prima di imparare dall'enorme esperienza di persone che sul campo hanno cresciuto potenziale e professione. Questo è il punto vero. Invece fa le eccezioni, come di solito succede, fa le sezioni per i medici o per i primari. Allora mi pare che questo polverone della circolare serva a coprire ancora un'idea malsana che alcune alte professioni debbano rimanere, altrimenti crolla il paese. Io vorrei che i bravissimi primari e chirurghi rimanessero fino a 75 anni, ma non a prendere lo stipendio, ad insegnare a colleghi, a farli crescere, tanti giovani medici laureati che aspettano di crescere il cambiamento. Quindi mi pare un polverone proprio lanciato per coprire l'incapacità di fare un vero cambiamento. Chiarisco agli ascoltatori quello a cui sta facendo riferimento a lei. Per i professori universitari e per i primari l'età, la pensione non può, il pensionamento d'ufficio non può scattare prima dei 68 anni. Per i medici il tetto è 65, di norma invece sarebbe 62 anni di età, se non sbaglio, per le donne, sia per le donne che per gli uomini, con 41,6 anni e 42,6 di anzianità, se non erro, insomma. Poi dare i numeri in radio è sempre complicato perché non tutti li colgono, però è più o meno così, no? Certo, ed è un errore quello che fa la Madia, perché io trovo giusto che chi vuole rimanere nelle alte professioni universitarie o specialistiche del ramo della medicina rimanga, potrebbe rimanere a part time, potrebbe insegnare, non rimanere fino a quell'età bloccando carriere. Quindi è un polverone lanciato proprio per niente. Noi siamo pronti, riguarda, i lavoratori. E la deroga riguarda anche i magistrati, Faverin? Certo, in occasione si dice altrimenti salta l'attività giudiziaria, ma bisogna pensarci prima, che abbiamo bisogno tra l'altro di più cancellieri, organizzazione del lavoro, oltre che di magistrati, altrimenti perpetuiamo un paese fatto di Matusalemme, che tra l'altro quella enorme esperienza che maturano negli ultimi 10 anni non la passano ai colleghi, ma se la Fiat utilizza le competenze acquisite per fare formazione in azienda e lo Stato non è in grado di attribuire e a far accedere queste enormi competenze di gente che ci mette una vita. Quindi sono provvedimenti antistorici, bisogna costruire la possibilità di passare competenze e conoscenze a frutto dei cittadini, della qualità, della produttività, non delle chiacchiere. E visto che siamo sui temi del lavoro, c'è anche il Papa che ne ha parlato, ha detto occhio, perché non è che basta andare a messa per essere puliti, per così dire, non è che basta fare digiuno di vigilia. Se siete degli imprenditori non dovete pagare in nero le persone che lavorano per voi, perché quello è un peccato gravissimo. I cristiani, specie in Quaresima, sono chiamati a vivere coerentemente l'amore verso Dio e il prossimo, e così il Papa ha dedicato l'omelia di oggi durante la tradizionale messa a Santa Marta per mettere in guardia da comportamenti farisei, fatti, ha spiegato, di osservanze esteriori, ma senza la verità del cuore. Francesco ha tuonato contro il lavoro nero e lo ha fatto con il suo modo informale ed efficace di parlare, che abbiamo ormai imparato a conoscere. Se uno va a messa tutte le domeniche e fa la comunione, ha argomentato il Papa, gli si può chiedere: e com'è il tuo rapporto con i tuoi dipendenti? Li paghi in nero? Paghi loro il salario giusto? Versi i contributi per la pensione e per assicurare la salute? Non si possono fare, infatti, offerte alla Chiesa sulle spalle dell'ingiustizia, ha ammonito il Papa. Questo è un peccato gravissimo, e usare Dio per coprire l'ingiustizia. Katia Gramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per rimanere sul fronte economico ci sono i dati dell'Istat, dati che ci consegnano segnali di ripresa. L'industria italiana comincia a riprendersi, complice l'euro debole e quindi un'impennata di ordini dall'estero. Dice infatti l'Istat che gli ordinativi dell'industria italiana a dicembre hanno messo a segno un deciso rialzo, salendo del 4,5% su novembre e del 5,8% su base annua. Tutto merito, soprattutto su base mensile, dell'impennata all'estero, più 8,1%. Non si registrava una crescita così forte sul mercato estero da settembre 2009 e sempre dall'estero arrivano le buone notizie per quanto riguarda il fatturato 2014 dell'industria, che segna un più 0,1% dopo due anni di ribassi. Anche qui le vendite si salvano grazie alla spinta che arriva dall'estero, più 2,9%, mentre sul territorio nazionale il dato resta negativo, meno 1,2%. Siamo a un punto di svolta, la ripresa sta cominciando, ha detto il direttore generale di Banca Italia Salvatore Rossi, intervenendo al convegno dell'Associazione Docenti di Economia e Intermediari Finanziari. Anche a livello europeo la primavera è vicina. L'indice PMI composito dell'Eurozona, che monitora l'attività manifatturiera e dei servizi, sale a febbraio a 53,5 punti, da 52,6 di gennaio, segnando i massimi da 7 mesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo all'estero, un breve aggiornamento dall'Ucraina, dove il Papa, ne abbiamo parlato poco fa del Papa, ha parlato anche di questo, ha detto, ricevendo proprio i vescovi dell'Ucraina, ha fatto appello a tutte le parti interessate perché siano applicate le intese raggiunte di comune accordo e sia rispettata la legalità internazionale. Nel frattempo, portavoce militare di Kiev dice che i separatisti filorussi hanno sparato circa 50 volte sulle postazioni ucraine nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore 5 giorni fa. Vedremo come evolverà la situazione da questo punto di vista. Di certo abbiamo la Libia, dove le violenze proseguono e dove ci sono state 3 autobombe. Sono almeno 30 le persone morte e altrettante quelle ferite negli attentati avvenuti stamattina nell'est della Libia. 3 autobombe sono esplose nella città di Al-Quba, che si trova a circa 40 km ad ovest di Derna, la roccaforte degli jihadisti affiliati all'ISIS. Secondo fonti della sicurezza, nei 3 attacchi sono stati colpiti simultaneamente il commissariato di polizia della città, una stazione di servizio e la casa del portavoce del Parlamento libico. La situazione nel paese resta ancora molto tesa. Stamattina lo Stato Islamico ha annunciato il coprifuoco a Sirte, la città conquistata di recente è sotto assedio da parte delle milizie del governo di Tripoli, non riconosciuto dalla comunità internazionale. Sul fronte diplomatico, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha incontrato a Washington il segretario di Stato americano John Kerry, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry. Nella riunione Mogherini ha fatto sapere che da tutti è arrivato un sostegno forte alla mediazione che sta conducendo in Libia l'inviato speciale delle Nazioni Unite Bernardino Leon, con l'obiettivo di arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine, come si diceva, vi parliamo di scuola. I tecnici del Ministero dell'Istruzione sono ancora al lavoro sul decreto della buona scuola, così è stato chiamato, che andrà in Consiglio dei Ministri il 27 di febbraio. Sarà importante capire da quali graduatorie verranno pescati i 148.000 precari che entreranno in ruolo e come verranno utilizzati. I dubbi degli esperti sono molti. Non si tratta di docenti che insegnano materie in cui ci sono posti vacanti, innanzitutto, come matematica e materie scientifiche. E poi molti sono al sud, dove invece non servono. È interessante sapere che c'è una nuova iniziativa all'interno di questo decreto, all'interno di questa riforma. Molti insegnanti verranno utilizzati anche grazie all'istituzione di zone cosiddette di educazione prioritaria. Sono zone che esistono in Francia. Si tratta di scuole in zone disagiate dove il tasso di abbandono è più alto. Maria Piera Ceci ha intervistato Francesca Puglisi, che è responsabile scuola del PD. È vero, nelle graduatorie ad esaurimento ci sono classi di concorso già esaurite, in particolare le materie matematico-scientifiche, e sono presenti più insegnanti nel Mezzogiorno d'Italia. Ma quando diciamo che l'Italia, che la scuola deve cambiare l'Italia, significa anche finalmente recuperare quel grande divario che separa Mezzogiorno dal Nord Italia. E allora disegnare anche zone di educazione prioritaria sulla base dei bisogni degli studenti, di una vera lotta alla dispersione scolastica, significa assicurare non solo al mezzogiorno ma anche nelle aree periferiche delle città metropolitane del centro-nord, dove più alta è la dispersione, assicurando gli insegnanti che servono per poter recuperare gli svantaggi di partenza. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Grazie come sempre per averlo scaricato. Le modifiche che abbiamo effettuato evidentemente stanno funzionando, mi hanno consegnato i primi dati che sono abbastanza confortanti, diciamo così. Voi continuate a scaricare, continuate ad iscrivervi, spargete la voce, naturalmente se la trasmissione vi piace e se vi fa piacere ascoltare questo podcast, scrivetemi effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure il mio account Twitter Simone Spezia, ovviamente mi trovate anche là. Il ringraziamento per la parte tecnica oggi va a Valeria Bernardi e un grazie a tutti voi per l'ascolto. Come sempre, ci si sente lunedì alle 13.